Mi baj itt van? Megy, csak felütözz követ. Kihajtam, nem múlik azon már. Felé! Gondolkozz, kell az utolsó kárt, ha nem kell. De hát nem Peti beteg vagy, nem az. Mi va? Vabbè, se ne viene da cognato. Vieni, questo è che anche il cazzo vedere cagnanna. Ost mi gosto. Vedi come è scritto questa zabba basita. Mi gosto. Cosa mi chiedi per no? Ne, vedo che in chi ci vediamo un po' lei, è scritto anche. Non vedo che non vedo. Da me... Mi... Devi evitarti l'acqua. Ma lo so, io si sente anche Luca, ma che piace meglio gli alati, i tecnici. Che piace, non lo so, gli occhi. Questo è il mio miracolo, dicevo. Dai, dai, mi attacchi stizza. Ma se Bobby l'avevi fatto su chiamato? Sì? Adesso non gli ho ti su chiamato. Cos'è sto già mit? D'accordo, niente. Stizza! Stizza, vedi trash! Vedi trash, stizza! Stizza, lei ti lasci, chi era? Stizza, lei ti lasci. Ah, bene. Lei ti lasci. kilenc. Cica. Cica, cica. Cica. Kurva anyádat! Kifelé! Csiszti! Nagyon gyorsan! Sicki! De! Sicki! Sicki! Megint öreg anyádat szórakoztassátok egymást. Anyádat Mi baj vama? No. Thank you.

Mm-hmm.